Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci alle 8:20 minuti. Eccoci qua, è ancora. Ripartiamo. Ci siamo ancora. Come no? Certo che ci siamo, più forti che mai. No, più forte che mai. Però ci siamo, ecco, ci questo. Siamo. Allora, questo 3 ottobre, dovete sapere che Alessandro è radioso, avete sentito l'energia con cui è la vittoria del Milan e niente, poi cosa sì, fa? Gli danno la carica e così. A figurarsi. Livello è sempre penoso, ricordatelo, è sempre penoso. Ai ai ai, il presidente si arrabbia. Allora, oggi è San Dionigi d'Areopagita, è un altro santo di quei santi che mi piacciono, perché insomma è uno di quelli che sente San Paolo ad Atene, era andato ad Atene e San Paolo va sull'Acropoli e fa questo discorso sul Dio ignoto che colpisce molto i filosofi di Atene, e Dionigi d'Areopagita a quel punto si converte e lo segue. Ma soprattutto è Sant'Edmondo di Scozia, caro Alessandro, perché figlio di Santa Margherita, regina di Scozia, quindi è chiaro che in famiglia noi abbiamo Margherita. Margherita, cioè mia moglie, la signora e padrona della mia vita, assoluta duce di tutte le decisioni di casa, non si discute mai. Anche vate No, vate senza R, però. No, l'hai detto con la R, smettila. Allora, va bene. Ma no. Allora, in questi giorni, tantissimi anni fa, cadde Gerusalemme, Saladin nel 1187 la prende ai crociati, e insomma non è ancora finita la storia, per così dire. La Napoli Portici, prima linea ferroviaria italiana, nel 1839 oggi si inaugura. Dopodiché, pensa, nel 1990 unificazione tedesca. Infatti oggi è festa nazionale in Germania per questo, e quindi borsa chiusa almeno su Deutsche Bank oggi possiamo stare un po' tranquilli. E 20 anni dopo, nello stesso giorno, la Germania finiva di pagare i debiti di guerra. Questo lo ricordo a tutti quelli che dicono che la Germania fa pagare solo i debiti alla Grecia, di qua, di là. La Germania li ha pagati fino al 2010, quelli della Seconda Guerra Mondiale. Compleanni: Carmen Russo, Maurizio Lupi, Ibrahimovic. Ah, Ibra, Zlatan, è bravo. Allora, caro Oscar, qua alle 8:22 minuti, intanto diamo il numero di telefono, 800 24 0024. Ma sai che scrive oggi Nando Pagnoncelli, solo un italiano su 10, almeno in questo sondaggio, sa bene quali sono i contenuti della riforma costituzionale che andremo a votare il 4 dicembre. Ti meravigli? Io meraviglio, nel senso che pensavo anche di meno, anche 0,5 italiani su 10. No, perché c'è questa storia per cui si fanno i dibattiti televisivi e si dà tutto per scontato. Cioè si fanno i dibattiti e c'è uno del sì, uno del no, ma nessuno che spiega esattamente. Perché sono oltre 40 gli articoli toccati, le materie sono tante. Io penso che se l'informazione dovesse fare quello che sarebbe tenuta a fare in queste condizioni che hai appena ricordato, cioè spiegare come erano prima, come sono adesso, parte molto tempo, la gente direbbe che è noioso. Che noia, eccetera. E quindi come fare per fare il nostro mestiere, avendo poi radio minuti contati, come si fa? Ma noi da lunedì prossimo lo faremo, dai, cercheremo di spiegarvi i contenuti della riforma che tutti gli italiani poi saranno tenuti a votare. Pensa che Pagnoncelli dice che il 50% degli italiani in questo momento sono indecisi, non sanno neanche che cosa voteranno tra sì e no. Infatti anche tutta questa cosa ogni giorno di dire no in vantaggio, visto che sì, sarà anche in vantaggio, non dico di no, c'è chi dice che al sud è in vantaggio di 16 punti addirittura, però con metà degli elettori che o non sanno o non sanno se ci vanno, che cosa dicono e decidono all'ultimo secondo sulla base di Renzi mi sta simpatico oppure no, ho l'impressione che sia un po' questo il drive. Alla fine gli italiani credo che voteranno politicamente, quelli che sosterranno Renzi voteranno per il sì, quelli che saranno contro Renzi voteranno per il no, che io ripeto, per me è un po' una tristezza, nel senso che si vota su una riforma costituzionale, non è che stiamo votando. Visto quanto ci mettiamo per toccare cose fondamentali della Costituzione, cioè decenni, esatto. Una cosa che poi resta, esatto. Oppure non resta, quindi resta così com'è. Va bene, comunque da lunedì cercheremo di capirne di più. Certo, però piccola riflessione, sui referendum bisogna starci attenti. Per fortuna che almeno questa è la mia opinione, per fortuna che in Ungheria ieri non c'è stato il quorum. Ecco, per esempio, la prima cosa però che dovremmo sapere è che non ci sarà il quorum in questo referendum del 4 dicembre. E pensa invece in Colombia, quelli festeggiano decenni di guerra civile finita tra FARC, la politica, fanno referendum e nel referendum viene bocciata l'intesa con tutti che rimangono senza poi. Cioè, ma come la maggioranza dei colombiani vuole che si continui a sparare a morire. Esatto. Ecco, per dire, referendum. Però vi chiediamo anche, intanto, se volete chiamarci, voi cosa ne sapete del referendum? Cioè, siete informati, vi sentite informati? Ditecelo. Capite che cosa c'è in questa riforma? Avete già deciso di votare? Avete già deciso di non votare? Voterete più con la pancia, Renzi sì, Renzi no, oppure vi informerete? Ditecelo. Esatto. E dopodiché intanto ieri si è litigato su Roma, si è litigato, mamma mia che noia però anche questa storia di Roma. Però Renzi ha accusato la giunta Raggi di essere vicina a Mafia Capitale, sentite come. Pensate che cosa sarebbe potuto accadere se fosse venuto fuori, come è venuto fuori, che la grande novità, la grande svolta sui rifiuti è stato consegnare il settore dei rifiuti a una donna che è totalmente collegata agli uomini chiave della vicenda Mafia Capitale. Si riferisce ovviamente all'assessore Paolo Muraro di cui si dice dovrebbe avere i giorni contati, questo almeno secondo i rumors. Caro Oscar, si litiga su Mafia Capitale. Certo, c'è da dire che non è che il sistema Mafia Capitale è stato creato negli ultimi 6 mesi, ecco, mettiamola così, si è più creato negli ultimi 20 anni. Qualcuno ha rinfacciato il fatto, ma come, c'era Buzzi in una delle cene di raccolta fondi del Partito Democratico, papacena con Renzi, non a fianco ma nella stessa sede. Eppure si litiga su questo, eh? No, ma soprattutto voglio dire, soprattutto chi ha governato per tanti anni creando tutte le premesse per il sistema di Roma fa finta di cadere non dalla luna, da Marte, accusando gli altri. Naturalmente io lo so che, cari ascoltatori, per alcuni di voi osservare questa cosa sembra tifi per la Raggi. No, mi limito a dire che siccome ci avete sentito per tanto tempo, no? Diversamente nelle nostre trasmissioni insieme, criticare a braccia aperte sconsolatamente sulla situazione di Roma e chi ne porta la responsabilità politica, semplicemente non ce lo dimentichiamo nel momento in cui pure registriamo le difficoltà quotidiane della nuova giunta e dei 5 Stelle all'avvio. Ecco, tutto qui, basta non dimenticarsi che chi adesso si erge a scomunicatore dal pulpito, forse qualche pecorella un po' nera e non bianca ce l'ha nel suo greggio. L'abbiamo detto tante volte, Oscar, però la politica è proprio il teatro di dove ci si dimentica delle cose, l'oblio. E anche abbastanza in fretta, no? Non dimentichiamo anche i conti di Roma. Oggi Repubblica dice che c'è un altro miliardo che è stato sulle partecipate. Lo so. Io però devo dire, ragazzi, c'è davvero il rischio default secondo te? Beh, il rischio default, se non compiono degli atti che sono quelli dovuti secondo i tempi delle leggi per gli assestamenti di bilancio e così via, certo che il commissariamento può scattare. Io devo dirti questo, però lo so che può sembrare una cosa un po' eccessiva, ma in fondo c'è una parte di me, da quando ho preso della nomina dell'assessore Colomban, l'imprenditore veneto, sì, alle partecipate di Roma, che una parte di me non riesce proprio a evitare di compiacersi, per così dire. Cioè, io sono esploso in una risata omerica quando l'ho letto. Io lo ma conosco, perché? Il Colomban, perché neanche nella mia fantasia più estrema avrei immaginato che una giunta di qualunque tipo a Roma chiamava un imprenditore evento che io conosco, durissimo nei suoi giudizi su come si lavora, tutto il pubblico che non funziona, eccetera eccetera, per di più un indipendentista veneto che si trova nelle mani adesso a dover dire la sua su Ama e Attac. Allora, io neanche nel mio film più avanzato, ecco. Quindi io su questo, mentre tutti dicono che scandalo, che schifo, dico vediamo. Tra l'altro Colomban potrebbe assumere, secondo alcuni, l'interim ai rifiuti, dovesse cadere Paola Muraro, che, ripeto, i giornali dicono potrebbe avere i giorni contati. Ma c'è un altro assessore sul quale è intervenuto Beppe Grillo, è Mazzillo. Assessore al bilancio. Anche qui c'è anche un giallo, dottore commercialista, ma non sarebbe iscritto all'albo dei commercialisti. Comunque, e poi c'è anche un altro giallo, era del PD, dice, e Grillo risponde così. Anch'io ho avuto una tessera del PD, non ve l'ho mai detta. Mi sono iscritto a Arzachena. Va bene, volta... va bene comunque, è un assessore di ripiego. No, non è di ripiego, non lo so. Chiedetelo alla Raggi, è lei che decide. Chiedetelo alla Raggi. Comunque, è vero, ma ti ricordi che Grillo voleva scalare il PD nelle primarie e aveva preso la testa del PD? Quindi dice non è quello un grave problema. Guarda però, Oscar, quanti ci chiamano? Daniele ci chiama da Milano, buongiorno Daniele. Sì, buona giornata. A proposito di referendum, sì, volevo sapere, visto che io non ho ancora deciso e spero che voi mi illuminiate da qui in avanti, sto girando per Milano da qualche giorno per lavoro e praticamente la città è tappezzata di cartelloni che invitano a votare sì. Volevo sapere, ma chi paga questi cartelloni? Io credo il comitato per il sì che ha raccolto 500 firme, il numero di firme necessarie, e quindi ha raccolto 500.000 euro, cosa che invece no, non è stato, esatto, in grado di fare. Loro hanno raccolto 500.000 firme per votare, anche se si sarebbe votato perché l'avevano già chiesto un quinto dei parlamentari, però hanno raccolto 500.000 euro e quindi potranno utilizzarli proprio, credo, per questo. Quindi almeno per quella quota Daniele sta pagando anche lei. Sì, perché sono soldi che hanno raccolto, avendo raccolto 500.000 firme, hanno diritto a 500.000 euro di stanziamenti. Damiano ci chiama da Savona. Damiano, buongiorno. Buongiorno signor Mina, buongiorno signor Giannino. Io sono abbastanza edotto sul referendum in questione perché seguo sempre voi, seguo Radio 24, sulle 24 ore, eccetera, eccetera. Però voterò solo per questioni economiche, nel senso che vado a votare perché non c'è il quorum, quindi andrò a votare, ma voto sì o no a seconda di come rifaranno il mio contratto come statale, perché sono 7 anni che aspetto qualche euro in busta. Pare che in stabilità, nella legge di stabilità, Renzi ha detto ci saranno i soldi per gli statali, quindi lei, se però tanto mi dà tanto, voterà tra i 300 sì. milioni a sberleffo che avevano messo appostato all'inizio e quanto poi metteranno alla fine, esatto. Ecco che su quello giustamente il nostro ascoltatore dice vediamo Damiano, dove si ferma. Ma lei, esatto Damiano, vedrà prima la quota, vedere moneta sonante, cioè stabilirà anche io voglio vedere il contratto firmato, credo che questo Renzi lo sa benissimo, quindi credo che vedrà che in qualche modo dovranno chiudere prima. Ma lei mette anche una sticella, cioè il rinnovo del contratto, ma pretende almeno una quota sopra la quale voterà sì, oppure basta che sì, ci io teoricamente sì, vorrei una quota. Capisco anche che l'Italia non sia ben messa e quindi non voglio neanche l'impossibile, però visto che comunque io non vado a timbrare il cartellino in mutande, e scusate la parola, però mi faccio un mazzo tanto dove lavoro, i miei colleghi compresi, siamo tutti dell'idea, perché non solo io, molti statali decideranno a seconda di cosa i signori decideranno. Ma guardi Damiano, oggi proprio il giornale, caro Oscar, dice che Renzi ha in animo una mossa segreta, quella di togliere gli interessi di mora, l'aggio, insomma le spese per chi decide di rateizzare le cartelle esattoriali di Equitalia. Chiamatelo condono, non chiamatelo condono, non so come lo volete chiamare, però questo avrebbe in animo Renzi. Certo, voglio dire, vediamo perché sono anticipazioni, del giornale, quindi ci può essere anche una punta di malanimo, anche se poi sono sempre colleghi che seguono le notizie anche loro, quindi non ci possiamo attribuire cattive intenzioni. Però pensa un secondo, Alessandro, cari ascoltatori, se davvero il governo nella finanziaria ammette da una parte la riapertura dell'emersione di capitali all'estero. Certo, la volontà di disclosure. E ci siamo capiti, perché il PD ha sempre ripetuto che non avrebbe mai fatto le cose, gli scudi di Tremonti. Poi ne ha fatto uno che aveva meno, diciamo così, vantaggi per il contribuente fedele, ma l'ha fatto e adesso addirittura lo riaprirebbe. Metti che faccia, primo questo. Secondo, abolisce gli interessi di mora se accetti di rateizzare, però paghi con Equitalia. Terzo, la rottamazione delle cartelle di Equitalia, promessa anch'essa. Soldi agli statali, come dice Damiano. No, ma io mi limito al fisco. Già sul fisco è una strategia che Vincenzo Viscolo vorrei avere di fronte a me per sentirgli bestemmiare in tutte le lingue del mondo, perché è chiaro che lui le considera tre dita negli occhi queste. Vedi Renzi come interpreta le strategie elettorali, perché non mettere sullo stesso piano, perché gli statali è vero che sono 7 anni che sono fermi, quindi io riconosco loro una ragione. Diciamo invece questa maniera creativa di affrontare la maniera fiscale, dimenticando tutto quello che per anni il PD ha detto, la lotta all'evasione, noi mai apriremo le possibilità a chi ha messo i capitali all'estero, mai e poi mai, due volte di seguito, eccetera eccetera. Vabbè, ma comunque le armi delle elezioni e dei referendum sono queste. Enrico ci chiama da Mantova, buongiorno Enrico. Sì, buongiorno Milan, buongiorno Giannino e a tutti i vostri ascoltatori. Ma io faccio una brevissima considerazione e poi entro nel merito. Il merito è: più mi informo, meno capisco, e quindi non posso nemmeno lontanamente pensare di votare in modo favorevole a qualche cosa che non capisco. Per cui in questo momento la mia posizione è fermamente sul no. La considerazione è di questo tipo. Renzi fa un passo indietro e dice di aver troppo personalizzato questo referendum. Benissimo, allora anche se io capissi e vado e andassi poi a votare per il sì, a questo punto dubito fortemente che Renzi non riprenderebbe in mano il referendum in modo assolutamente personalistico, dicendo: avete visto, mi avete tanto criticato, ma poi alla fine gli italiani mi danno ragione e torno a fare quello che voglio, esattamente come è successo per le europee. Vabbè, insomma, il ragionamento molto molto profondo di Enrico davanti, ma che però dice: più leggo e meno capisco. poi le considerazioni politiche. In effetti ci sono alcuni passaggi, lo vedremo nelle trasmissioni di approfondimento con dei tecnici da una parte e dall'altra, come il nuovo articolo sul procedimento legislativo diviso tra Camera e Senato, articolo 70, che sfidano, per così dire, la comprensione, per come sono scritti, per quanto è lungo e per quanto alla fine uno ha l'idea. Ma non ci hanno detto che era semplificato? Ecco, sul procedimento legislativo tra Camera e Senato direi proprio di no. Allora, noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, poi Oscar andremo in Siria, perché ci siamo dimenticati che c'è una guerra mentre noi parliamo di queste cose. E avremo anche la fortuna di collegarci con Aleppo, una delle città più martoriate in questo momento in Siria. Vi vogliamo raccontare che cosa sta succedendo, anche per aprire un po' i nostri orizzonti. Torniamo con voi tra pochissimo. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Siamo qui, caro Oscar, sono le 8 e 40 minuti. Allora, vogliamo parlare anche un po', allargando gli orizzonti, di quello che succede all'estero, in particolare in Siria? Soprattutto c'è una situazione ad Aleppo molto molto complicata per la popolazione civile, intanto, per i bambini, per i bambini che vengono uccisi quotidianamente. Lì la situazione è diciamo, banalizzando, semplice, in realtà molto complicata. C'è la Russia che sostiene Assad contro i ribelli, chiamiamolo così, e quindi appoggia Assad, fa anche bombardamenti. C'è l'America che dice: cara Russia, così non va bene, c'era una tregua che abbiamo siglato tra l'altro pochi giorni fa e questa tregua la rompiamo subito, e ci sono i civili come sempre che sono di mezzo. Tra l'altro, nel fine settimana Kerry, il segretario di Stato americano, si è lasciato sfuggire in due occasioni delle dichiarazioni che ovviamente danno l'idea, insomma, di quanto siano distanti le parti, perché dice: io sono sconfitto perché io volevo la forza, gliel'ho detto in vano al presidente che non mi ha dato retta, come si vede coi russi non se ne viene a capo. Quindi ha dato l'idea proprio di un'America, adesso mi dispiace dirlo, ma si vede, no, alla fine di questa presenza Obama, che tutto quello che ha fatto in Medio Oriente, più di quello che ha fatto in Medio Oriente, è stato, insomma, un mezzo disastro. Però come potrebbe infine mandato autorizzare l'utilizzo sono della forza? Ma sai, è tutto, se ci pensi, fin dall'inizio sulla Siria gli Stati Uniti hanno avuto un atteggiamento commettendo errori eccetera eccetera, in cui si è infilato Putin, poi mandando con la forza di cui dispone, essendo un regime autocratico, mandando gli aerei nelle basi eccetera eccetera per difendere le sue basi sul Mediterraneo, che sono in Siria. Quindi è una strategia molto complicata. Pensa un po' alla Turchia, con quello che è successo, quanto è diventata anche più forte a rivendicare la sua egemonia nell'area, e purtroppo la gente di Aleppo e di tutta la Siria ci è andata di mezzo. Ci va di mezzo. Ovviamente le testimonianze non sono moltissime da lì. Intanto un giornalista c'è stato fino a pochissimo tempo fa, credo fino a ieri, si tratta di Giordano Stabile, che è inviato della Stampa e che è collegato con noi. Buongiorno Giordano. Buongiorno a voi. Sì, sono tornato ieri da Aleppo a Beirut, e quindi diciamo ho notizie fresche, però sono stato nella parte ovest, quella dei governativi, perché Aleppo Est è completamente circondata e quindi non c'è modo di entrare nella anche parte, perché lì ci sono i cosiddetti ribelli, per l'appunto. Si vede e si sente la presenza in qualche modo, anche se non fisica, beh, da parte dei russi sì, ma di Stati Uniti e Russia, e del fatto che ci si giochi una partita ben più ampia sulle macerie della Siria. I russi percorrendo la strada da Damasco verso Aleppo, oltretutto una strada secondaria che sfiora anche il territorio dell'ISIS, si vedono come ci sono colonne di camion blindati che vanno o verso Aleppo, appunto, verso Palmira, la zona di Palmira. Quindi la presenza è molto forte, si parla di 1500 forze speciali che sono in città e che quindi che guidano questa offensiva, che adesso sta andando molto bene, tra virgolette, per Assad. Assad, ricordiamo che c'è da 6 anni la guerra, eh? È così, Giordano? Sì, sono 6 anni, 300.000 morti, e come dicevi tu è molto complicata, perché c'è il primo strato geopolitico, ovviamente la rivalità tra Russia e America per il controllo del Medio Oriente, e la Russia non può assolutamente rinunciare alla Siria, se no sarebbe tagliata fuori, e poi ci sono le tante guerre nella guerra. Ci sono le forze democratiche che sono ridotte al lumicino anche ad Aleppo e sono state sostituite dalle forze islamiste, in particolare al-Nusra, cioè l'Al-Qaeda, e Ahrar al-Sham, che è questo gruppo islamista legato molto alla Turchia. E la Turchia gioca un ruolo importante anche in questa partita di Aleppo. La Turchia ha sempre voluto, ha rivendicato fin dai tempi di Ataturk Aleppo come parte della Turchia. E quindi però in questo momento è indebolita dal golpe, e quindi anche le forze, diciamo, filo turche sono in ritirata. Sono in ritirata. Tra l'altro, noi, Giordano, tu sei stato appunto ad Aleppo, ma siamo anche in grado di collegarci con una persona che si trova ad Aleppo, vive lì, è padre Ibrahim, è un parroco della chiesa di San Francesco, proprio ad Aleppo, nella zona di Aleppo Ovest, è giusto, padre Ibrahim? Sì, buongiorno. E grazie di essere ovviamente qui in diretta. Grazie a voi. Come si vive ad Aleppo è la classica domanda, insomma, banale, ma se può descrivere a noi, sa, siamo in Italia, leggiamo attraverso i giornali, abbiamo letto attraverso i reportage di Giordano Stabile, ma come davvero si vive in una città come Aleppo, assediata soprattutto nella parte est, lei ce lo può descrivere? Si vive nella, quasi la normalità della vita è diventata una normalità. Viviamo, specialmente in questo periodo, l'ultimo periodo, un momento, un culmine della violenza. Da circa 5 giorni che siamo sotto bombardamenti, abbiamo sempre visto le abitazioni, sulle zone abitate in questa parte ovest. Non riusciamo a dormire la notte. Io personalmente mi sono svegliato diverse volte anche questa notte con tanti bombardamenti, tanti missili vicini che cadono di continuo sulle abitazioni della gente. Questa mattina in una zona chiamata Midan, che si è trasformata quasi in un punto di scontri fortissimi, tante case sono cadute in pieno sui suoi abitanti. La gente soffre, scappa, tante famiglie scappano dai loro familiari o scappano altrove per evitare proprio questi scenari di violenza e per evitare la morte. E quindi un terrore, viviamo in un continuo terrore qua. Sì. Si aggiunge a questo anche la mancanza dell'acqua, anche nella parte ovest. Sicuramente parlo della parte ovest dove viviamo noi, dove vive la comunità cristiana, in questa parte che è la parte più grande della parte est, che quasi contiene 1.200.000 abitanti, mentre la parte est non abbiamo delle cifre esatte, però si parla di 200, di 150.000 persone che vivono lì. Qua non abbiamo l'acqua, la gente bussa, anche ieri, domenica, dal mattino presto, venivano tante persone a bussare la porta del convento chiedendo se avremmo distribuito anche la domenica l'acqua potabile alla gente. E insomma, continuiamo il nostro servizio per quanto riusciamo. Capisci, Oscar, qua poi la situazione, noi parliamo di tante cose anche italiane che ci riguardano da vicino, ma queste sono situazioni. Ma la corrente elettrica invece, padre, c'è, è regolare, ci sono interruzioni nella corrente elettrica oppure no? Non c'è per niente corrente. Non c'è per niente. E questo rende la situazione più difficile. Non ci sono medicine ormai, e il servizio, specialmente anche le medicine speciali per il cancro, per altre malattie croniche, non si trova per niente. La gente muore di continuo per mancanza di o medicine o anche cura medica, perché non abbiamo il personale, non abbiamo medici specializzati, se non pochissimi, e qualche volta non ce la fanno per un modo o un altro ad aiutare tutta la gente. C'è, padre Ibrahim, un aiuto internazionale? So che ci sono Medici Senza Frontiere, ci saranno anche altre, ma riescono a operare gli operatori internazionali oppure no? Da due giorni abbiamo incontrato lo staff dell'UNICEF. UNICEF. Che è venuto nella nostra parte controllata dal governo e l'esercito regolare. E abbiamo condiviso tante fatiche, tanta sofferenza. Loro cercano di intervenire nel campo delle scuole in questa parte della città. Abbiamo anche condiviso quello che viene fatto, quello che deve essere fatto. Però oltre agli UNICEF non abbiamo visto altre parti internazionali. E Medici Senza Frontiere opera nella parte est della città, sì, e non nella parte ovest. Abbiamo celebrato tanti funerali, specialmente l'altro ieri, che era una giornata proprio di sangue, e dove sono morti in modo speciale della comunità cristiana, quelli che conosciamo già, sono morti o 7 persone, e gli uffici funebri non riuscivano a seguire tutti i casi, hanno rimandato anche i funerali per un giorno o due giorni, e abbiamo tante ferite gravi, tante persone feriti gravi, e fra di loro diversi bambini. L'altro ieri soltanto, come giornata, abbiamo avuto una decina di morti e una ventina di feriti, e non abbiamo una statistica ancora delle case che sono state distrutte completamente o parzialmente in questi ultimi giorni. Beh, è abbastanza impressionante ciò che padre Ibrahim ci sta raccontando in diretta da Aleppo. Noi, padre Ibrahim, la ringraziamo molto. Io voglio ricordare, perché li vogliamo ringraziare, la ONG ATS Pro Terra Santa, che è al servizio della custodia di Terra Santa, da 6 anni è impegnata a sostenere la popolazione siriana e che ci ha aiutato in questo contatto con padre Ibrahim. Giordano Stabile, la battaglia di Aleppo perché è così importante? Ed è una battaglia che andrà avanti finché l'esercito non avrà snidato tutti i ribelli? Sì, intanto confermo appunto che anche i ribelli bombardano in modo indiscriminato. Io sono stato nel quartiere di Midan sabato, e c'erano i funerali di questi ragazzi uccisi da queste bombole riempite di esplosivo, che poi lanciano con dei mortai molto grandi, anche se rudimentali, e fanno un macello, possono distruggere una casa. Sì, questa, diciamo, controffensiva ribelle, soprattutto con i bombardamenti, segna il momento in cui stanno cedendo il terreno e cercano disperatamente di resistere. Fonti governative dicono che la battaglia potrebbe finire nel giro di un mese, perché anche essendo completamente circondati non hanno più rifornimenti, quindi stanno finendo le munizioni, i carburanti, eccetera. Chiaro. La battaglia è decisiva perché se Assad riprenda Aleppo, è impossibile ipotizzare la nascita di una Siria alternativa a quella del regime, perché le due città principali sarebbero in mano Damasco sua, e perché avrebbe controllo di tutta la zona occidentale, che è la più ricca e la spina dorsale del paese. Ma è chiaro. Intanto Giordano Stabile, ringraziamo anche te, ovviamente inviato della Stampa. Caro Oscar, questa battaglia insomma, forse durerà un mese, intanto dura da 6 anni, se ne racconta molto poco. No, comunque per la parte nostra, e poi noi adesso ormai facciamo gli spettatori, però l'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti hanno una responsabilità gigantesca, hanno abdicato ai loro ruoli negli scacchieri più delicati del mondo. Centinaia di migliaia di vittime, milioni e milioni di profughi. Possiamo far finta che la cosa non ci riguarda, ma è il senso della fine della responsabilità e consapevolezza storica della civiltà occidentale. Questo è, in questi anni progressivamente, questo si afferma, e il fatto che noi rimaniamo indifferenti, siamo indifferenti alla nostra scomparsa come ruolo al mondo, la nostra consapevolezza dei valori che abbiamo. Scusate, io non, quando penso a centinaia di migliaia di bambini, innanzitutto i bambini, lo so, però io non riesco a pensare che noi ci siamo ridotti a spettatori, ma siamo, vabbè. Eh no, e che poi i flussi delle persone che fuggono, come diceva padre Ibrahim, sono i flussi di quelle persone che poi vengono anche in parte in Europa, sono quelle che l'Ungheria ha votato. Esatto, no, nell'estate 2015 l'apertura della Merkel, questi, che ha scatenato tutto il casino, era sui siriani e sugli afghani, quindi è ovvio. Eppure non riusciamo a capire, siamo lì a guardarci l'ombelico, tutti felici, ma sì, costruiamo le frontiere, tanto stamperemo le lirette, saremo tutti a posto. Che pena, ragazzi, che pena. Va bene, dobbiamo fermarci qui anche per oggi, con Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia, anche Carmelo Lauricella in regia. Insomma, oggi è una squadra numerosa, squadrone. Siamo, quando vince il Milan c'è lo squadrone. C'è lo squadrone, dai, ci troviamo domani, grazie. A domani.